it. I've been paying my debts, love it. I've been stealing Corvettes, stunning. Ooh, quiet on set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The work's been killing me dead, stun it. Killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like a human centipede. Hold your horses, pick it up. What's better than two girls, two cups? What's better than a two-bug good night? What's better than fries and a chicken lunch? Hey guys, should I postmate Chuck E. Cheese? Wait, ain't no Chuck E. Cheese in Los Feliz. Wait, there ain't no steez if there ain't grease. Unless you ordered that sugar fish sushi. Oh, quiet on set, running. Ore 19:42 secondi, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. La nostra siga, Quiet on Set di Remy Wolf. Che volevi dire, Pinklo? Che ti è rimasto qui un po'? 14 febbraio. È vero, 14 febbraio. Questa è la puntata numero 44 di Likewise. Come i gatti. Prima o poi dovremmo ricordare anche in che album sta questa canzone. Che non me lo ricordo più. Juno. Ecco, bravissimo. Quindi andatevela a cercare, cercatevi tutto il disco. Mentre anzi, preparavamo la puntata, io e Donna, Donna mi ha passato un video di lei che cantava uno dei nostri show preferiti, lo sanno tutti quelli che Tiny ci ascoltano. Tiny Desk, NPR, sì esatto, in realtà cantava ospite, da ospite un, sì, insomma, nel set di un musicista che adora Remy Wolf esattamente come noi, e quindi Remy Wolf si è prestata per fare la vocalist durante il suo live e anche un po' di pezzi. Insomma. Remy, anche il nostro studio è piccolo, puoi venire pure da noi a fare un piccolo show, noi saremo contentissimi. Molto molto bravo, come al solito, tra l'altro una voce bellissima che qua non si sente tantissimo in questo pezzo, ma in realtà lei ha una bellissima vocalità, grande tecnica e tra l'altro è simpaticissima, quindi cioè, ci piace sempre di più. Primo pezzo, dai, 19:02, questa sera tornano anche i nostri amici di Note Cose Città, quindi proveremo ad essere puntuali con una puntata omaggio a Tom Verlaine che ci ha lasciato lo scorso gennaio, fine gennaio, e intanto partiamo con la scaletta di questa sera di Likewise. Lei si chiama Azmera, Cry No More. Young spirit, old soul, and all that glitters ain't gold, so be bold. We'll have to cry no more. And we won't have to cry no more. We'll have to cry no more. I cried myself to sleep wishing pops wouldn't leave. I mediated talks to stop the internal bleed. Declared I would not wear my heart on my sleeve. So I kept running from the feelings that were so deep. I felt abandoned, my heart was stranded. Was too demanding and no one could understand it. Wondering why I felt so damn empty-handed. So I asked God please, got down on my knees. I searched the family tree seeking some basic relief. R.I.P. Auntie Larice. Old thoughts and patterns rooted in limiting beliefs I release, that's right. If you got dreams, then you got the right to chase them. If you got demons, then you got to fight to face them. Cause every test you are facing is preparation for your elevation. Okay, let's go. My soul is being fed, I can feel the path ahead. Okay, yeah, yeah, yeah. My soul is being fed, I can feel the path ahead. That's right, yeah. And we won't have to cry no more. Won't have to cry no more. Nope. And we won't have to cry. Have to cry no more. They say I would be a really good capitalist if one day I didn't care about half of this. Okay. But I could feel it in my bones. I came to claim my throne. I'm protected and respected. Tune out the world in my zone. My skills I hone. Like which boxes are you about to break today? Tell me whose hands are you about to shake today? Tell me what deals are you about to make today? Laser focus, something they could never take away. I had to stop making excuses. Instead of blaming the world, I looked at the girl in the mirror named as Mirror. She's got those brown curls. Her vision's never clear, but she's ready to pop pearls. Young, gifted, and black, what you know about that? Hansberry brought the heat, now I'm gonna run it back. Yeah, Now I'm gonna run it back. Hansberry brought the heat. Now I'm gonna run it back. So we won't have to cry no more. Yeah. Said we won't have to cry no more. È bellissimo l'augurio di Asmera. We won't have to cry no more. Non dovremo piangere più. Uscito l'11 febbraio, se non mi sbaglio. Si Pinco dall'altra parte annuisce. Young Spirit, Old Soul è il nome dell'album di debutto di questa bellissima musicista, scrittrice, attivista, studiosa, poeta, femminista, produttrice, insegnante di capoeira da 10 anni. Insomma, un artista a tutto tondo che fa tantissime cose nella comunità, in realtà, mm-hmm. di origine hawaiane, però non mi ricordo adesso dove vive in realtà. L'album, credo... sai che non mi ricordo, l'album è stato registrato nel Massachusetts, sì, esatto, quindi insomma, sì, sì. Immagino che abiti da quelle parti. Tra l'altro ha fatto diverse cose, perché è fondatrice e direttrice di Break the Boxes, un'organizzazione di educazione pop che è guidata da donne nere, utilizza la narrazione tra le generazioni, cercando di anche di portare e promuovere le tradizioni, sia religiose che non, le arti creative, il benessere spirituale comunque. Poi fa parte di un collettivo hip hop che fa la stessa cosa, anzi sta cercando di fare un archivio digitale di tutti i contributi internazionali di donne e ragazze nei 50 anni di storia dell'hip hop, quindi un lavorone grosso, interessante, che ci auguriamo riesca a portare, esatto, avanti. E sul, diciamo, sul suo sito in realtà racconta anche molto bene quello che è lo spirito di questo album, appunto, come avete sentito, Young Spirit, Old Soul, quindi uno spirito giovane in un'anima vecchia sostanzialmente, e racconta appunto che idealmente questo album si divide in due parti, una prima parte in cui sia musicalmente che rispetto ai testi diciamo è un po' più come posso dire contemporanea in qualche modo, quindi utilizza dei beat un po' più hip hop e insomma rappa di più come avete sentito, mentre nella seconda parte e diciamo magari affronta un certo tipo di temi, il patriarcato tanto per dirne uno, di quelli che diciamo ci passano spesso da queste parti, e invece una seconda parte che è appunto quella dedicata all'anima vecchia e quindi un po' più, diciamo, old school in qualche modo. Sì, è anche per come si pone lei, anche più curativa. È carino perché nella presentazione dell'album sul sito di Bandcamp c'è scritto alla fine parole sue: nello spirito dell'amata antenata Bell Hooks, che il patriarcato suprematista bianco capitalista imperialista possa cadere oggi e ogni giorno, che possiate sapere che siete abbastanza così come siete, con i vostri difetti e tutto il resto. Lo siete sempre stati, lo sarete sempre. Qui mi sembra proprio yes, vai. L'ha dette tutte. L'ha dette tutte, ti vogliamo bene anche noi. Quindi cercate questo disco, che almeno a me queste sono le sonorità che mi piacciono tantissimo in questo periodo della mia vita. L'ho trovata molto bella, molto, un lavoro molto ben fatto. Vi ricordiamo che se qualche volta, diciamo, nella nostra, diciamo, ansia di raccontarvi le cose, vi perdete il titolo oppure il nome dell'artista, in questo caso Asmera, potete sempre andare su ondarossa.info, guardare tutte le cose che riguardano la radio e anche cercare Likewise e tutte le sue scalette. O comunque, se siete e avreste un animo più pigro come il mio, potete scriverci likewise@ondarossa.info, chiedeteci e noi vi risponderemo. Pezzo numero 2 della scaletta, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, More Than Chemical Hum Fun. I don't Questa era Home Phone, il singolo uscito da poco. Loro sono una band di Salt Lake City. Il pezzo che avete sentito si chiama More Than Chemical. Sono dello Utah loro. Sì, lo Utah. Lo Utah. Che si fa nello Utah? Si fanno cose belle. No, si fanno cose belle. Ci sono gli Utah Jazz che giocano a parte il basket. No, perché in realtà diciamo, ho visto, abbiamo intercettato il loro singolo uscito da poco, perché in realtà mi è arrivata una notifica di un loro prossimo appuntamento live. Non so se ti ricordi che ti ho mandato l'immagine del festival nello Utah il 12 che maggio. Fanno un super festival nello Utah, comunque dovremmo andare tutti. Cioè le line up, diciamo, la line up è The Strokes, Pavement, Yeah Yeah Yes, Pixies, Japanese Breakfast, loro ovviamente, Parker Cause, veramente, cioè Faye Webster. Sto cercando di acchiappare tutte quelle che sono The Wolf, Alice Fibelou, tantissime artiste che sono passate da questo canale. E insomma, un festivalone nello Utah. Vabbè, sì, c'è anche questo, di stato nel centro del, diciamo, centro già verso ovest dell'America. Loro sono appunto un duo, è carino, perché però se ti vogliono fare una battuta, ma secondo me comunque loro per Salt Lake City non girano, perché è una di quelle band che compone in camera da letto, in cameretta, non li hanno mai visti in giro, no. Non li hanno mai visti in giro. Questo è il loro primo disco. Loro in realtà si conoscono da un po'. Sono solo in due. E quindi lei si occupa anche della parte più, quella diciamo più vocale, lui si occupa più della parte produttiva, e hanno tirato fuori questo disco che secondo me è super godibile, indie pop appunto, minimalista, senza fronzoli, anche abbastanza diciamo orecchiabile, molto melodico. Ci sta. Prossima band, annunciala te. No, non lo farò mai. Si chiamano The Ace. When I Die. Oh, when I die, it'll be a while. But when I die, I'll need to remind you that I'm sorry I left you behind. And I'm kissing you through this one. Oh, when I die, build a funeral pyre. 'Cause when I die, I'll need to remind you. Better build it high, make it burn so bright. Let it light your way back home. Oh, when I die, march me to the fire. 'Cause when I die, I'll need to remind you. Play the music loud, sing and dance around. Oh, ring all the bells in our town. Oh, when I die, raise your glasses high. 'Cause when I die, I'll need to remind you. Drink to my life and forget me not. In your mind I'll be living on. Oh, when I die, eyes open wide. Oh, when I die, cover me in flowers, so you look my way as you walk on by. I will be perfume in the air. Oh, when I die, it'll be a while. But when I die, I'll need to remind you that I'm sorry I left you behind. And I'm kissing you through this song. Questa era When I Die, uscito in realtà a metà dell'anno scorso. L'album si intitola Fruit e loro sono The Ace. Sarebbe Lea. Ma in perché realtà... lei si chiama Amelia l'altra si chiama Alexandra. Esatto. In realtà sono già passate in altra forma da queste parti. Amelia Meath è voce e anche diciamo compositrice della band che io adoro, tra l'altro Sylvian Esso, e Mountain Man. Alexandra Sosemanning è anche lei compositrice, cantante, diciamo musicista di Daughter of Swords e Mountain Man. In realtà questo è un album di quelli, diciamo, che vengono fuori da una lunga amicizia, da una lunga conoscenza, da svariate collaborazioni, ma anche proprio da una, da una intimità personale. Sì, e non solo, anche da una passione per gli yodel e per la musica e per una certa musica country. Lei, loro dicono che, insomma, questo progetto è nato già nel 2011, quando comunque stavano in giro in tournée con i Mountain Mall, con i Mountain Men, però loro dicono a Molly, che era, che è la terza, diciamo, del trio della band, sì, delle Mountain Men, non interessavano né gli yodel né questo tipo di musica. Invece loro due si trovano molto e condividevano, e hanno iniziato a a cantare in realtà loro due da sole nel 2013. Comunque hanno già, sì, facevano già spettacoli, e in qualche modo in questo, sempre in questo tempo sospeso del 2020 che abbiamo conosciuto tutte e tutti, e che spesso da questi microfoni viene fuori che tante artiste hanno trovato il tempo, il modo, anche un tempo spazio diverso e differente per poter creare, e si sono dedicate esattamente allo yodel e a cantare questo disco, che sembra un po' figlio almeno, come dicevo a Donna in questi giorni, delle Coco Rosi, però in qualche modo meno mentale, sperimentale anche, in un certo meno senso. Mentale e meno sperimentale, però sì, c'è qualche gioco, cioè, diciamo che c'è qualche strumento che non è strumento e che hanno utilizzato per far venire fuori dei suoni, però siccome principalmente il punto è la voce di loro due insieme, in qualche modo sono tutte cover tranne quelle che abbiamo ascoltato. Molto carino. Sì, infatti vale la pena di ascoltarlo, non ve lo consigliamo, vi ricordiamo, l'album si intitola Fruit, e sì, insomma, ci sono tanti pezzi a cappella, oltre appunto che l'utilizzo dello yodeling, ma insomma in generale è un folk molto acustico e sicuramente molto morbido, molto ascoltabile, quindi provateci. Prossimo pezzo, lei si chiama Scout Chillet, Slow Dancing. Yeah. Questa è la Scarlet Slow Dancing, tratto dall'album No Roof, No Floor, uscito per la Captured Tracks alla fine dell'anno scorso. Sì, sì, era ottobre. Mm-hmm. Ed è l'album di debutto. Yes. Lei che è cantautrice, originaria di Kansas City, adesso vive a New York. In realtà ha avuto una storia un po' travagliata con la musica. Sì. Lei è arrivata a New York nel 2017, si trovava, diciamo, si è ambientata nella zona, nella scena Do It Yourself di Brooklyn, ha suonato con diverse band e ha aperto anche un'agenzia di booking per organizzare serate, però poi sono successi un po' di eventi nella sua vita, nel senso che ha perso una persona cara per overdose, poi c'è stato l'inizio del lockdown e ha pensato vabbè, torno in Missouri, torno a casa mia. Lo dico casa mia perché questo è uno dei temi, insomma, delle storie che attraversano il disco. E torna a casa sua e in realtà non la sente più come casa, nel senso che anche la città la trova abbastanza sofferente, trova i suoi amici e i suoi parenti comunque anche loro in situazioni problematiche di alcol e droga, rifà i bagagli e torna a New York. Esatto. E mette tutto questo alla fine in musica. Mette tutto questo in musica, diciamo, è interessante che dice a un certo punto quello che fondamentalmente viene fuori da questo lavoro anche su se stessa e da questa, diciamo, un po' delusione, no? Del mal di casa che l'aveva presa e che poi in realtà ha scoperto che, insomma, casa non era più, perché le cose intanto cambiano, che noi ci siamo o no, e è diventato un po' un album di consapevolezza che possiamo salvare soltanto noi stessi, non si salvano le altre persone, ognuno deve in qualche modo fare le sue scelte e diciamo e andare avanti così. Quindi, insomma, un album intimista, ma in realtà soltanto per i testi, perché comunque la musica è abbastanza rock in un modo abbastanza tradizionale. Lei molto brava, secondo me. Quindi, insomma, questo album vale la pena di essere ascoltato. No Roof, No Floor. Sì, perché alla fine poi tra l'altro è registrato in un grande fienile con le porte spalancate. Se sentirete poi il disco vi accorgerete che ci sono anche, diciamo, certi suoni della natura, i grilli, quindi senza tetto né pavimento. Alla fine, insomma, questa casa, lei dice, appunto, come diceva Donna, è dentro di te, cioè il luogo in cui puoi stare bene e che ti puoi sentire al sicuro e che puoi in qualche modo chiamare sempre casa, dovunque tu sia. Esatto. Anche ovviamente, cioè, ovviamente lo diciamo perché è importante, frutto di collaborazione con musiciste e musicisti, di, diciamo, amiche e amici di lunga data, che in qualche modo anche loro, diciamo, alla fine del periodo di lockdown si sono trovate a voler fare delle cose, quindi, insomma, si sono trovate nello stesso posto, allo stesso momento, collaborando a questo, diciamo, alla creazione di questo album. Mandy, Indiana, Injury Details. Thank you. Man Indiana, Injury Details, bella io band questa. L'ho messa io la no, mi è venuta a me. Bella band, questo singolo è uscito, diciamo, alla fine di gennaio di quest'anno. Bella band di base a Manchester, con cantante che canta in francese, perché nella sua lingua madre. Industrial dance, molto, diciamo, agitato, anche molto violento, anche le testi molto diciamo belli aggressivi. Dall'altra parte arriva qualcuno, sì, ciao. E quindi, insomma, un bel gruppo, una bella, diciamo, in generale un bel progetto sperimentale, insomma, di da un punto di vista musicale. Al loro attivo hanno un EP che è uscito un paio d'anni fa, sto cercando come metà novembre del 2021, uscito per la Fire Talk, che è una bella etichetta e che non mi ricordo come si chiama, però si chiama, credo, Battle Episode, può essere? Sì, no, cercatevelo perché non me lo ricordo e non ci giurerei, ma molto carino anche quell'EP, quindi insomma recuperato se vi è passato, se vi è sfuggito. 19:30, per chi si fosse messo in ascolto adesso, questa è Likewise, siete sulle frequenze di Radio Onda Rossa, è martedì 14 febbraio, noi siamo alla pezzo numero 6 della scaletta, quindi siamo in super orario. In super orario. Ricordo che se volete chiamarci 0649 17 50, scriverceli, ve l'abbiamo già detto prima, likewise@andarossa.info. Ride or die, di nuovo, niente, c'è la morte stasera. Ride or die, Ox. Don't waste my time, you know what I want, the look in your eyes tells me all that I need. Don't make me ask twice, don't keep it in check, no holding it back if it's as real as it gets. But tell me what you write. Ride or die. Adesso l'indovinello è: quante sono secondo voi in questa band? Che fanno un bordello, si può dire? Due. In realtà già passate da queste parti. Puntata numero 25. Sì, in realtà le avevamo passate. Secondo me avevamo pure detto che speravamo che uscisse un loro lavoro, perché le avevamo ascoltate con un EP che era Wrong Girl, che era uscito nel 2019. C'era in giro un altro singolo, però ancora non avevano fatto un album di debutto, che invece è preannunciato dal singolo che abbiamo ascoltato e che uscirà a marzo di quest'anno. Quindi ci hanno ascoltato, evidentemente no, le ARX ascoltano, like, no, scherzo. Ovviamente no, in realtà ce l'aspettavamo. Stanno comunque lavorando, facendo uscire un sacco di cose, un sacco di singoli. Se andate a cercarvele perché vi piace questo alternative rock che fanno loro, sono in tour, diciamo, nella parte almeno nord dell'Europa, praticamente sempre da adesso in poi, e quindi insomma sicuramente ci voleva questo. Sì, hanno come nome di essere il duo queer alt rock di Brighton al momento più famoso, quindi uno dei più famosi. Ne parlavamo della scena di Brighton l'altra puntata, insomma, quindi questa era una delle altre band che erano già passate di qui, e quindi insomma ci piaceva anche farvi riascoltare, giusto per pungolarvi, per andare poi a Brighton, no per andare ad ascoltare le vostre se si può, ben venga, farsi un giro, diciamo, da altre parti apre sempre la mente, ma in generale comunque pungolarvi e andare a recuperare le cose che abbiamo passato. Esatto, le cose che abbiamo passato ovviamente sapete che le trovate sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, basta che usate il tag Likewise, vi escono tutte le puntate che sono pubblicate tutte le settimane. Sono le 19:35, pezzo numero 7 della scaletta, che ha vinto finalmente la puntata, perché... Sì, diciamolo, perché in realtà Sophie Jameson, che è una musicista che mi piace molto, la sua voce mi piace moltissimo, anche perché mi ricorda altre autrici, poi ne parleremo dopo, in realtà è nelle nostre temporanee scalette da un po', ma da non trovava spazio. Questa è, esatto, alla terza, però alla terza volta gli è andata bene, ritento. Ci ascoltiamo Addition, Sophie Jameson. What did I do last night? I lost my back and broke a hole in my memory. I think I left a part of me behind. I was kind and then became a kind of enemy. Stranger part of me to find. Don't let it get to me, don't let it edit me. More than the sum of the booze in my blood, I'm more than the sum of my father and my home, I'm more than a drought, more than a drought, more than a flood. What did I do last night? I lost a fight and took the whole of my energy, twisted into nothing recognizable lethargy of mind. I left my dignity four bars behind. Don't let it get to me, don't let it edit me. More than the sum of the than the son of my father and my home, more than a drought, more than a drought, more than a flood. more than the sum of the booze in my blood, more than the sum of my flare in my heart, more than a drought, more than a drought, more than a flood. E questa era la voce di Sophie Jameson, il pezzo si intitola Addition. Forse ci stava in questa scaletta dove ci sono tante cantautrici questa sera molto intimiste che hanno ragionato, lavorato su se stesse, che hanno prodotto con dei testi, insomma, in qualche modo che riflettessero su alcune questioni. In modi diversi, con musiche diverse, certo. Con scelte diverse. L'album di debutto si chiama Choosing, è uscito per Bella Union alla fine dell'anno scorso. E allora, sì, a sì, me, proprio alla fine, a dicembre. A me, diciamo, subito mi è subito piaciuta moltissimo la sua voce, comunque l'impostazione, anche la chitarra, il modo di suonare la chitarra. Mi fa venire un po' in mente una delle mie musiciste preferite che si chiama Shannon Wright. Se non la conoscete, recuperatela. E, ed è una musicista molto giovane, di base a Londra, ovviamente canta. Autrice, quindi chitarra e voce e liriche belle, cioè se vi sembrava, diciamo, pesante questo pezzo, lo è in effetti. Sì, no, lo dire. È in effetti. E ha pubblicato anche lei, ha una storia comunque travagliata con la musica, ha pubblicato il suo primo EP World nel 2013 e in realtà sembrava anche il momento giusto, quello era un periodo che l'indie folk comunque andava molto bene in Inghilterra, c'era anche una situazione quindi, diciamo, favorevole a un certo tipo di ascolto. Poi c'è stata una lunga pausa fino al 2019, dove lei dice a un certo punto non riuscivo più neanche a prendere lo strumento, dice, in uno dei traslochi addirittura ho lasciato la chitarra a casa dei miei perché la prendevo in mano e non riuscivo a suonare neanche le mie vecchie canzoni. Nel 2019 invece sembra che in qualche modo questa voglia di musica sia tornata prepotente e da allora in realtà non si è più fermata, ha pubblicato due EP, Hammer e Release, e che raccontano appunto la depressione e in qualche modo l'isolamento, e come dicevamo alla fine di del 2022 è uscito questo album di esordio. Sono canzoni che parlano del dolore, quindi sì, certamente non sono probabilmente allegre, però sappiamo che la musica può essere catartica, consolatoria, in qualche modo qualcuno che ci racconta anche liberatoria, qualcuno che ci racconta anche magari delle esperienze che poi più o meno tutte in qualche modo attraversiamo nella vita a periodi, può sempre tornarci utile. Questi sui dischi magari in certi momenti ti fanno stare meglio, anzi, quindi vanno ascoltati. Sì, infatti leggevamo insomma insieme durante nel fuori onda e insomma una delle liriche più insomma più profonde, più belle ma anche più pesanti di Addition che abbiamo ascoltato prima, dice: sono più della somma degli alcolici nel mio sangue, sono più della somma di mio padre e di mia madre, sono più di una siccità, sono più di un'alluvione. Quindi insomma, bella potente. Alla fine ce l'hai fatta, Sofì, siamo contenti per te. Prossimo pezzo, lei si chiama Muiziu, Ghost with a Peach Skin. Questa era la voce e la musica di Muizu. Non so come si pronuncia, non so, lo dico subito che non lo so. Che se lo sapete, fatecelo sapere. 0649. Comunque è il suo nome d'arte. Esatto. Perché lei si chiama Eva Liu. Che è più facile, diciamo. Sì, cioè, ci facilitano un poco. Artista britannica di Hong Kong. Membra della band. Siete stati attenti, dovremmo interrogarli, non so, ascoltatori e ascoltatrici. E tra l'altro, giuro che queste non so programmate, sempre nella puntata numero 25 di Likewise abbiamo messo l'altro, il gruppo, il trio indie rock dove suona Damask Out. Allora, questo è un bel esperimento suo solista. Uscirà, come dicevi prima, l'album che si chiama Rotten Bun for an Eggless Century, che è un nome bellissimo, la settimana prossima, il 24 febbraio. Quindi è proprio un bel esperimento musicale. Vabbè, la sua voce è veramente fantastica, si presta tantissimo con questa, diciamo, elettronica un po' industrial, un po' dance in certi momenti e in altri anche no, che insomma le sta tutta, le sta benissimo. Direi che c'è tanto in realtà da dire, perché questo album nasce dal fatto che lei in qualche modo si è pacificata con se stessa, col suo essere cinese. Dice: io per molto tempo ho cercato anche un po' di negare questa cosa, insomma, di non volerla quantomeno dargli voce e dargli spazio. E invece ha preso ad ascoltare sia anche delle cose di folklore cinesi, di leggere, e questo disco qui in qualche modo racconta di questo, di questa identità riscoperta, di questa appartenenza riscoperta con orgoglio, e quindi ci parla un po' di questo, ma mantenendo sempre, certo, appunto, sì, un'atmosfera melodica, pop e diciamo musicalmente leggera, quindi in realtà un contrasto abbastanza interessante con quello che è poi il tema che si sviluppa nell'album. Sì, diciamo che non è che ha bannato un'identità per un'altra. Assolutamente. Gli ha solo dato più respiro, come piace a noi, appunto. Non è che siamo una cosa sola, non ci piace. Sì, come dicevi, in realtà appunto lei a Hong Kong britannica, insomma lo stato, anche un po' l'identità di Hong Kong è sempre stata abbastanza particolare, e quindi insomma di base a Londra con la band che citavamo prima, insomma, quindi un personaggio molto interessante, ci piace molto. Prossimo pezzo? Sì, prossimo pezzo, 19:48 sull'orologio della regia di Radio Onda Rossa, Freedom, Kovacs. Listen to all those voices talking about our choices, but they are only noises trying to deny the truth. One thing's for sure, for certain, somewhere behind the curtain, the Wizard of Oz is working night and day as he turns the screw. Slow, slow, slowly it goes, slipping away until nobody knows. We draw the line when all of our lives entwine. It's easy to close our eyes, we don't want to count the cost. Step by step when no one's watching, mothers, fathers, children suffering, man and woman must do something, gotta stand up before it's lost. Freedom, freedom. Is it worth fighting for? Freedom, freedom. Is it worth dying for? Bye. Questa era Freedom dalla voce di Sharon Kovacs, cantante soul olandese. Insomma, ci spostiamo verso zone dove, insomma, devo dire che il soul in Olanda per qualche motivo, cioè, va moltissimo. Voce molto particolare, ha all'attivo un paio di album e diciamo questo ultimo Child of Sin uscito a gennaio di quest'anno. È uscito a gennaio di quest'anno, 10 tracce, il suo terzo disco, quello più difficile nella carriera di un artista, come cantava qualcuno. E dice: nessuno nella mia famiglia era musicista, mio padre lo era ma io non lo conoscevo, e in realtà tipo i miei genitori quando cantavano mi dicevano sempre di stare zitta, però ora sono i suoi più grandi fan, quindi le cose possono cambiare per fortuna. E, ha pubblicato un disco, un singolo insomma, che ha dato il lancio alla sua carriera nel 2014, My Love, che pare sia fosse anche la colonna sonora di uno spot, ma io non sono riuscita a recuperare quale, anche se ho ascoltato la canzone ma non mi è venuta in mente, e viva, meno male, non mi ricordo la pubblicità, mi sembra una cosa molto buona. E, ha questa voce che ricorda in qualche modo un po' Amy Winehouse, sarà perché insomma fare soul bianco, cioè viene fuori sempre questo timbro che suona molto strano alle nostre orecchie. Quindi che somiglia un po', intendi, cioè un po' un'impostazione un po' simile. Un'impostazione un po' simile, però molto molto interessante, perché infatti comunque la voce è molto molto bella. 19:53, noi siamo felicissimi di vedere al di là del vetro Note Cose Città, che sono tornati in studio, quindi vi allieteranno dalle 20 o quello che resta di loro. Vi allieteranno, ma non penso che ci sia la radio accesa, non ci sento. Vi allieteranno dalle 20:15 e noi che siamo in super orario incredibile ma vero, possiamo chiudere la scaletta della puntata numero 44 di Likewise di questo martedì 14 febbraio con calma. Con calma, sì, perché sembra tipo autorizzazione. La possiamo chiudere con calma, no? Abbiamo anche il tempo di ricordarvi tutte le cose che di solito vi ricordiamo alla fine. Facciamolo prima dell'ultimo pezzo, dai. Allora. Sì, no, anche perché questo pezzo comunque io vorremmo parlare di lei, perché penso che abbia una storia molto molto interessante, sia per dove vive, i Maori, Australia, quindi molto molto bella anche la sua storia biografica in qualche modo, non solo quella artistica. La si chiama Jen Chloe, il pezzo si intitola My Witch. If you wanna be my witch, lay it on me, be the ride you hitch. When you hit that perfect pitch, I wanna be that switch. Yeah, you gonna make me sweat. Give me what you got, what you wanna get. Pull me in and hold me down. Show me with a look what you're gonna do now. Honey, there ain't no shame in getting what you want, gotta give it a name. It's more than a feeling. Baby, won't you take it slow? I don't wanna miss any part of this move. It's more than a feeling. More than a feeling, honey, there ain't no shame. Jean-Claude My Witch, da diciamo l'album che ancora non è uscito, che uscirà il prossimo marzo, che si intitolerà I am The river is me. Cioè sono il fiume è me. Sì, che dovrebbe uscire il 3 marzo di quest'anno per la Milk Records. Intanto parliamo di lei, poi parliamo della Milk Records. O parliamo della Milk Records. In realtà parliamo di tutte e due. Parliamo di tutte. La Milk Records l'ha fondata lei, quindi parliamo in qualche modo di lei con Courtney Barnett. E anche lei è stata nelle nostre scalette di Likewise, lo sapete che ci piace tanto, quindi ripescatela, cercatela. E lei è una cantatrice, performer, vive nella terra dei Wudunjeri, non sappiamo se si dice così, intorno in una terra che non è posta a vincoli, a Nam, vicino al Melbourne, in Australia, quindi insomma vive nei territori delle terre degli indigeni, di chi è in realtà australiano, mi viene da dire, però vabbè, credo Maori in realtà. È molto interessante, cioè ci sono delle cose tante cose che si possono dire. Una di quelle è che lei ha cercato la parola queer in Maori, e quando perché tutto il disco è in qualche modo anche un racconto, un omaggio della comunità LGBTQ plus della Nuova Zelanda, dei Maori, della comunità LGBTQ plus nei Maori, sì. E questa storia è molto bella, perché quando ha scoperto questa parola le dice praticamente per i Maori i takaata pui, che è il modo in cui la parola Maori, che significa un partner devoto dello stesso sesso, e nella terminologia occidentale in teoria appunto, quindi sono tutti gay, lesbiche, bisessuali, transgender, e dice che è usato per tutte queste, loro sono già gender fluid praticamente, esatto. E lei racconta che in realtà appunto i Maori probabilmente lo erano, cioè nel senso non avevano tutte le problematiche che poi sono, diciamo, hanno portato gli occidentali, soprattutto i missionari cattolici, quando sono arrivati in Australia. Cosa che non ci sorprende affatto, è una, diciamo, appunto, Jen è in giro nell'ambito musicale dagli inizi del 2000, quindi sono più di 20 anni, ha avuto una lunga relazione d'amore con Courtney Barnett, e insieme durante quel periodo hanno fondato appunto questa etichetta che si chiama Milk, con il punto esclamativo, Records, per la quale insomma escono, che ne so, le Slater Kinney, tanto per dirne una, e tante altre, diciamo, artiste interessanti che sono passate o che passeranno da queste parti. Quindi insomma ci piace anche ricordare che è proprio un progetto di produzione veramente interessante. E poi appunto con Courtney Barnett, che ha suonato con lei, ha suonato nella sua band insieme con altre musiciste che fanno parte, diciamo, della scuderia, come si dice, della Milk Records, e che appunto sono diciamo vicine abbastanza da un punto di vista di intimità per suonare insieme, andare a fare tour insieme, quindi insomma è proprio una piccola famiglia che ha da poco fatto appunto 10 anni, in cui c'è una collaborazione reciproca ai progetti dell'una dell'altra. Tutto come piace a noi. Esatto, come piace a noi, tutto molto interessante. Sono le ore 20 e incredibilmente abbiamo finito la scaletta di Likewise. Speriamo di avervi fatto compagnia per quest'oretta di musica. Eccola. Love it. C'è sempre Remy Wolf che ci annuncia che dobbiamo lasciare i microfoni a Note Cose Città, che comincerà alle 20:15. Dopo a seguire c'è Semiglia e poi c'è Morfire, quindi restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e sostenete questa radio, che come sapete non campa l'aria, non ha padrone, non ha padrino, non ha sponsor, non ha pubblicità, non ha niente di niente se non voi, il vostro amore, voi che l'ascoltate, e che potete sostenere la radio attraverso il sito ondarossa.info. c'è un, diciamo, un menu con scritto sostienici, dove trovate tutti i modi per poter sostenere la radio, ce ne sono diversi, trovate quello più vicino al vostro modo di essere, oppure passate a Vede Voci 56, quando c'è qualcuno in radio sicuramente vi potrà aprire e potrete lasciare qualcosa per noi, così ci aiutate a far andare avanti la radio. Allora, Likewise finisce qui, prossima puntata numero 45, la prossima settimana sempre su Radio Onda Rossa e... Martedì 21, tutti i martedì di questo mese, del prossimo mese, sono 7, 14, 21, 28 e a marzo sono 7, 14, 21, 28, così, c'è la cabala, non lo so se serve a qualcosa. Donna Sala e Caffin Club vi salutano. Alla, ciao, buona settimana. Serata. creme brulee. Don't fly me, oh my. Orgy at five guys with five guys. That's 10 guys and holy Christ, I've never seen more nuts in my life. Don't wanna be a Debbie, Debbie, Debbie, Debbie, Debbie. Quiet on set. Run it. I've been taking my bets. Run it. I've been paying my debts. Love it. I've been stealing Corvettes.